Se avessi saputo che nella vita i tuoi errori si affezionano, li perdi, poi ti inseguono, poi rimbalzano e ritornano. Se avessi saputo che nella vita le sconfitte si ripetono, circondano i tuoi passi lentamente e poi ballano sul tuo cadavere. Ma tu non puoi scoprire il tuo destino, dolce pauroso assassino che sia, e non puoi sapere il tuo futuro, se no questo viaggio non sarebbe così duro. Che le persone sono strane, indecifrabili, non avrei certo perso molto tempo per comprenderti. Se avessi saputo che tutto quello che rimane è solo polvere, spariscono le cose più importanti che erano fragili, illusioni. Pauroso assassino che sia, e non puoi sapere il tuo futuro, se no questo viaggio non sarebbe così duro. In questo modo mi sarei messo a ridere davvero di risate, sarei morto. Sorry.